Cialtroni nello spazio, puntata numero 13. Esclusivamente per oggi o quasi in diretta, quindi potete telefonarci allo 030. Sta diventando un'abitudine in realtà, però. Potete telefonarci in diretta allo 030 45670 e chiedere voi a Marco che cos'è questa trasmissione. È lo spazio informativo settimanale di Radio Onda d'Urto che riguarda le tecnologie internet, la libertà digitale, i diritti delle persone in internet. Un giorno glielo scriveremo, è promesso. No, l'altra volta l'avevo scritto, però stavolta non Poi è fiacco oggi. Come mai sei così fiacco, Marco? Ho dormito poco. Però ho passato l'esame di Stato, Addirittura. E questa era una notizia da dare in diretta, in effetti. Allora, oggi andiamo a occuparci di diverse questioni che si appunto trattano la sicurezza soprattutto per quanto riguarda utenti Windows, un po' di problemi che sono saltati fuori nei giorni scorsi. E poi Alessandro, lascio continuare a te la scaletta che non hai. Andremo a parlare anche della GPL3, ne abbiamo già accennato nelle scorse settimane, ma ormai è ufficiale, Linus Torvalds probabilmente non la accetterà e quindi andremo a vedere un po' di dettagli su questo. Andremo a parlare di quella che è stata la notizia della settimana scorsa, che è finita su tutti i giornali e i telegiornali, ovvero che Microsoft avrebbe aperto il codice del suo sistema operativo Windows Server. Ovviamente non è così, andremo nei dettagli un attimo a vedere anche un po' come si crea questa disinformazione all'interno dei circuiti mediatici. E poi la settimana scorsa avevamo detto che avremmo presentato dei client BitTorrent, vedremo se ci sarà spazio per farlo oggi. Allora, partiamo da due notizie di servizio. Allora, una riguarda Winamp, che è il player utilizzato da molti su piattaforma Windows della casa software Nullsoft. Allora, esiste una possibilità di scaricare un file .pls, una playlist malformata, che permette poi a qualcuno di esterno di utilizzare appunto Winamp come punto di accesso e attaccare il vostro computer. Quindi attenzione a quando si scaricano file .pls e da dove si scaricano, perché è particolarmente pericoloso la vulnerabilità. Allora, il PLS è il formato di indice normale dei file multimediali in Winamp, e di solito uno non si accorge neanche di utilizzarlo, quindi consigliamo caldamente a tutti quelli che utilizzano Winamp di aggiornarlo, che gli fa bene. Altra cosa, sta circolando una mail con un file allegato, una mail che città più o meno ho trovato per una coincidenza, un file che contiene alcune informazioni su di te, ho preferito porgertelo con una password, eccetera, eccetera, eccetera. Più o meno la mail recita così, e in allegato c'è un file .exe con l'iconcina di Word. Ecco, non è un documento, in allegato c'è un file zippato che voi lo aprite con questa password, sì. E poi all'interno c'è il file .exe con l'iconcina di Word. Questo com'è possibile, Alessandro? Questo perché le icone non rispecchiano il contenuto dei file, almeno su piattaforma Windows, nel senso che le icone sono date a priori dal sistema operativo in base all'estensione, che è quella cosa che c'è dopo il punto, quindi il .doc.xls, .exe, eccetera, eccetera. Ecco, per tutte funziona così, tranne che per gli eseguibili, quindi .exe, .com, eccetera, dove è possibile integrare nel file che fa partire il tutto l'icona. Quindi un file.exe può avere una qualsiasi tipo di icona, compresa quella di Word, quella di Excel, quella di qualunque altra roba. E questo è particolarmente grave soprattutto per quegli utenti che utilizzano la funzione nascondi le estensioni dei file conosciuti, che e non sarebbe mai da utilizzare, in quanto appunto non fa vedere le informazioni relative al file. E allora, per disabilitarla basta andare nelle strumenti, proprietà dei file, dare una cartella di Windows Explorer, opzioni cartella, e da lì si può disabilitare l'opzione nascondi estensioni per i file conosciuti, di modo che ci si rende conto che anche se l'icona è di Word, il file è un .exe oppure .com, e i file .exe e .com sono, diciamo così, quelli eseguibili e che quindi possono creare i maggiori problemi di sicurezza e portare i virus. In questo caso il virus è stato salvato in un formato in criptato, e quindi tutti gli antivirus normalmente non possono aprire questo file criptato, perché per essere aperto ha bisogno di una password, e quindi non possono analizzare il contenuto, e quindi non trovano il fatto che dentro ci sia un virus. Quindi, almeno questo quando, questo quando passa dal programma di posta elettronica, poi quando provate a eseguirlo forse... No, dubito anche lì, no, lo eseguo direttamente, quindi... No, durante l'esecuzione viene filtrato, non è... per quello no. Ecco, diciamo un virus diverso dal solito, anche perché è scritto in italiano, mentre invece la maggior parte dei virus provengono da paesi esteri, e quindi insomma questo è particolarmente pericoloso per quanto riguarda gli utenti italiani. Continuiamo anche a parlare di repressione nei confronti degli utenti del file sharing, di quelli che condividono la musica o programmi o film o anche i propri, semplicemente i propri documenti attraverso il cosiddetto il protocollo peer-to-peer. C'è stata una condanna in Inghilterra. Una condanna di due persone che sono state appunto ritenute colpevoli di aver posto in condivisione materiale protetto dai diritti d'autore. Quindi anche in questo caso, come avevamo segnalato negli Stati Uniti e in Italia, col caso che è ritornato insomma in primo piano nelle scorse settimane, esatto, in questo si trattava di persone, di privati che mettevano in condivisione, diciamo, senza scopo di lucro. Normalmente, sostiene la BP, gli utenti fin qui denunciati avevano accettato di pagare quanto richiesto dalle major pur di evitare il processo. Cinque di loro, accusati di aver condiviso un totale circa 9.000 brani, hanno deciso di non farlo, e per due di loro si è già conclusa l'avventura processuale, mentre per altri tre ci vorrà ancora del tempo. Ecco appunto, si tratta della prima condanna, dovranno pagare 1.500 sterline di multa, più altri costi, vabbè, giudiziari eccetera, e danni, e che dovranno essere ancora determinati appunto, vabbè, perché più o meno il sistema processuale è come il nostro, quindi prima viene stabilita la colpevolezza, poi viene stabilita il risarcimento per la parte civile, che in questo caso sarebbero i detentori del copyright. E a riguardo di questo, Sue Sharman dell'Open Right Group, che è un gruppo che si occupa di appunto di diritti digitali eccetera, ha così detto: è veramente spiacevole che il giudice Lawrence Collins, che ha comminato la sentenza, abbia scelto di spedire questi due casi fuori dai tribunali, consegnando una sentenza a BP, che è l'equivalente alla nostra CI, senza dare a nessuno dei due imputati l'opportunità di un processo. Dobbiamo ancora vedere un dibattito vero e appropriato sul file sharing nel Regno Unito. E vedere il giudice Collins allineato in questo modo così plateale con la BP è scoraggiante. Ecco, sì, una cosa che non avevamo detto è che il giudizio è stato, diciamo, quello che da noi si chiama per direttissima all'incirca. Poi vabbè, gli ordinamenti giuridici sono molto diversi, per cui fare i paralleli è difficile. Però insomma il processo è stato per direttissima, quindi è già concluso, non c'è contraddittorio, non ci saranno gradi di giudizio, questi si pigliano la multa e fine della storia. E questa si abbina ad un'altra notizia, sempre proveniente dall'Inghilterra, un po' come in Italia, gli ISP sono sotto assedio. Gli Internet Service Provider. Ovvero quelle società, quei gruppi che forniscono l'accesso a Internet, ad esempio da noi, vabbè, sono i soliti, la Telecom, Libero. Libero, Virgilio. Virgilio no. Si dà anche accesso a Internet. Oh, sì. Non litigate, bambini, dai. È diverso. Virgilio è un portale, non fomentiamo la confusione. Comunque ecco, anche in Inghilterra i provider sono sotto assedio, appunto perché sotto richiesta del governo o comunque delle forze di polizia, viene richiesto il rilascio di dati personali di circa 150 utenti, sempre con l'obiettivo dell'ostacolo della, come si dice, della pirateria. Quindi vabbè, le tematiche sono sempre le stesse, quindi diciamo giro di vite per quanto riguarda i diritti digitali e la privacy in Inghilterra. Vedremo come si porterà avanti. Anche negli Stati Uniti c'è un tentativo di avere un accesso privilegiato da parte delle forze dell'ordine delle connessioni internet. In particolar modo c'è in ballo un accordo generale del garante locale delle comunicazioni, si chiama la Federal Communication Commission, che ha esteso a qualsiasi genere di servizio di accesso broadband, quindi accesso banda larga, la possibilità per la Polizia Federale di accedere alle informazioni trasmesse in rete. Non è un giudizio da poco, si è data attuazione in questo modo alla CALEA, la Communication Assistance for Law Enforcement Act, sarebbe in pratica una specie di polizia postale, anche se non è esattamente un corpo di polizia, ma più che altro un assistente, insomma, per quanto riguarda appunto l'analisi dei reati attraverso la rete. E in pratica il meccanismo è sempre quello: si vorrebbe una backdoor, quindi una possibilità per le forze dell'ordine di accedere in maniera indipendente e omnicomprensiva agli accessi a internet, quindi saltando quel passaggio che adesso è obbligatorio, che sono le richieste agli ISP, agli internet provider, dei loro registri, che permettono l'ultimo collegamento, quindi passare dall'IP, che è quel numero che identifica un computer in internet, al telefono e quindi alla persona che lo sta utilizzando. Questa cosa è indispensabile ovviamente per le indagini. Il discorso molto, molto complesso, molto delicato, è quello appunto del permettere questa ricostruzione direttamente alle forze dell'ordine, perché questo permetterebbe molto di più dell'indagine investigativa. Sarebbe come una schedatura di massa, come se ci fossero già da parte delle forze dell'ordine una serie di registri accessibili indipendentemente per quanto riguarda numeri di telefono, residenze e insomma tutte le attività che normalmente uno fa e che per cui le forze dell'ordine devono avere delle autorizzazioni vere e proprie. Esatto, quindi si scavalca di fatto la necessità di un pubblico ministero di richiedere cioè di dare il mandato ai poliziotti in mano, alle forze dell'ordine, per andare a controllare appunto i dati delle varie connessioni effettuate da una persona. In questo caso si scavalca sia l'internet provider, si scavalca, è ancora più grave, il pubblico ministero. Dopo queste news andiamo adesso ad ascoltare un brano musicale per poi continuare con la seconda parte della trasmissione, in cui ci occuperemo della GPL3 e del non rilascio del codice sorgente di Windows la settimana scorsa, al contrario di quanto hanno detto tutti. Cosa ascoltiamo di bello, Alessandro? Allora, penso che per un po' andremo avanti ad attingere da questo nuovo repository che si chiama Yamendo, da cui abbiamo preso anche l'album della scorsa settimana. Molto ricco comunque questo repository. È molto ricco e soprattutto è fatto molto bene anche per quanto riguarda le classificazioni. Una cosa che avevamo che non avevamo detto l'altra volta è che c'è una mappa, come hanno tutti questi motori, delle categorie, quindi c'è il rock, il pop, il folk, l'elettronica, eccetera. Però questa mappa è costruita in modo tale che la scritta che identifica la categoria è più grande a seconda di quanti brani ci sono in quella categoria. Quindi guardando la pagina si vedono subito le categorie principali e poi diciamo i rami più specifici, più di nicchia, sono sempre più piccoli. È molto carino, aiuta anche abbastanza a cercare le cose. Allora andiamo a sentire Glenn Williams, che è un cantautore folk americano, e dall'album Post Millennial andiamo a sentire dunque True Romance Magazine. So fine, I love that girl with a love so rare. Sheila don't know that she is mine. I called her up and said, hey Sheila, Sheila baby honey child, what's your sign? She said, stop in wrong way, do not enter. I don't think that Sheila wants to be mine. My life's in nothing like Don Juan DeMarco's, and I don't believe the movie love scenes. Harlequin is escapist fiction. Life ain't nothing like a true romance magazine. Now I know a girl and her name is Linda. Lucy and Linda, a set of twins. Look so good, it's a bachelor's dream. I don't know where I should begin. Called up Lucy and said, hey Linda. I called up Linda and said, hey Luz. They both slammed the phone down and called their lawyers. Lucy and Linda wanna cook my goose. And my life's in nothing like Don Juan DeMarco's, and I don't believe the movie love scenes. Harlequin is escapist fiction. Life ain't nothing like a true romance magazine. I know a girl and her name is Amy. Hair so red it's driving me wild. I want to be her teddy bear. I want her to be my honey child. I called her up and said, hey Amy, I love your hair color, it's so natural. She said, who the hell is it? What do you want from me? How'd you know what number to call? My life's nothing like Don Juan DeMarco's, and I don't believe the movie love scene. Harlequin is escapist fiction. Life ain't nothing like a true romance magazine. No, dicevamo zio Bill non rilascia il sorgente di Windows. C'è stata un po' di confusione la settimana scorsa, quando a seguito anche di quello che mi sembra che ne avevamo accennato forse proprio la settimana scorsa in assemblea, l'Unione Europea aveva condannato la trasmissione. Ti capisco. Troppa assemblea in questi giorni. Tanto. Ok, in dopo la trasmissione. No, in realtà è perché noi facciamo sempre una piccola riunione prima della trasmissione, quindi non mi ricordo se poi è finita in trasmissione o no questo argomento. La settimana scorsa l'Unione Europea aveva condannato già diverso tempo Microsoft per acquisire un vantaggio illecito e sfavorevole alla libera concorrenza, aveva fissato una multa di 497 milioni di euro e poi 2 milioni di euro al giorno finché Microsoft non si fosse messa in regola. E poi la settimana scorsa mi sembra che avevamo detto che c'era stato il differimento di questa multa. In realtà cosa è successo la settimana scorsa? Subito dopo che avevamo annunciato, se l'abbiamo fatto, di questo rinvio, Microsoft ha deciso di aprire parte del suo codice sorgente. Questo è diventato su Lancet e su tutti i suoi e su tutti i giornali che la copiano pari pari come viene rilasciato il codice sorgente di Windows. In realtà non è una grandissima notizia, ma in realtà per fare un po' di chiarezza vogliamo spiegare un attimo cosa è successo. In realtà Microsoft non ha ovviamente rilasciato il codice sorgente di Windows, ma ha lasciato soltanto una piccolissima parte del codice sorgente di alcuni protocolli di comunicazione di Windows Workgroup Server e di Windows Desktop, che era proprio quelli al centro della disputa con l'Unione Europea per vari anni. Cosa succede? Siccome non c'è il codice sorgente, Microsoft teneva in un certo modo nascosto il funzionamento esatto di alcuni protocolli di Windows, rendendo più difficile per le altre società di software realizzare prodotti compatibili pienamente con Windows. E di fatto molti di quelli che utilizzano server Microsoft erano quasi obbligati ad acquistare software Microsoft. Paolo Attivissimo, con la sua solita facilità divulgativa, fa il paragone tra chi compra una Fiat e si trova costretto a montarvi delle gomme Fiat invece che montarvi gomme conformi e magari migliori di altre marche. Dopo questa condanna dell'Unione Europea, Microsoft ha deciso di rendere accessibili le porzioni di codice contese e soltanto quelle, e ovviamente il codice sarà esaminabile ma non pubblicabile o riutilizzabile, e per esaminarlo si dovrà pagare. Questo è molto molto ma molto diverso da quello che insomma viene inteso per software open source. L'Unione Europea adesso dovrà valutare se le misure sono soddisfacenti. Non è semplice, infatti non è detto che la semplice offerta di esaminare il codice senza la sua documentazione tecnica completa, che tra l'altro una piccola parte era già stata fornita, sia soddisfacente, perché questo non costituisce di per sé un grande aiuto alla concorrenza, anche perché il sorgente di Microsoft è molto disordinato ed è carico di toppe, quindi poterne esaminare una sola parte è un po' ridicolo, nel senso che magari quella parte viene modificata da altre patch in qualche modo successive. E comunque, tra l'altro, la stessa diffusione di questo è relativa a una particolare versione di Windows, e sicuramente verrà stravolta nella prossima release di Windows che si attende per il 2007, e quindi non alla fine questa qua probabilmente è un'aria fritta fatta dalla Microsoft, bella e buona direi. L'unica cosa interessante possiamo dire che sia il fatto che quando viene minacciata di dover pagare 2 milioni di euro al giorno, Microsoft comunque un briciolo ascolta l'Unione Europea e le altre istituzioni che la condannano. Sì, però è l'unica cosa. Diciamo che magari ascolta ma non risponde come dovrebbe. Non risponde come dovrebbe. C'è da vedere se questo... Vedremo se l'Unione Europea accetterà questi chiarimenti da parte di Microsoft. What side is wrong, right? Some innocent lies we lost in a battlefield tonight. So hungry to kill, only a step. I'm so tight, lie, bam, bam. Hit the flesh and it feels so wrong. I value my life, now God bleeds. Check it, with doubt, lie. His definite sense, kept his innocence. Heavy heart, vows claim on to anything intimate that she think find around. I don't think with the difference between Bush and Saddam. Shake out mad, got a team. Osama Bin Laden, no Idi Amin. Fidel Castro, seems to me they on the same. Streams. If it's so important for us to fight for mankind, I don't see none in it. Allora, abbiamo parlato spesso di BitTorrent, che è, diciamo, il sistema di file sharing, anzi, meglio di... sì, vabbè, il protocollo di file sharing, quindi come vengono scambiati i file più all'avanguardia in questo momento, quello che va dalle migliori performance. Anche se in Italia non è quello più diffuso. No, non è quello più diffuso, per una serie di motivi. Tra l'altro, recentemente ho assistito a un seminario, appunto, di un inizio di studi all'Università di Trento riguardo ai protocolli peer-to-peer, e uno studio, appunto, dell'efficienza in generale di questi protocolli per tutta una serie di cose. Tra l'altro, cioè, tematiche sostenute dall'AFF, da chi oggi difende i protocolli peer-to-peer in quanto tali, al di là del file sharing, ma proprio perché sono un notevole passo in avanti. Abbiamo visto nelle settimane scorse la televisione che può utilizzare protocolli tipo quello di BitTorrent per lo streaming, una serie di innovazioni legate a questo protocollo, ma anche ad altri. Insomma, questo rimane all'oggi, è quello più avanzato. Quando ne avevamo parlato, mi pare l'anno scorso, avevamo presentato il programmino che si chiama il client per questa applicazione, che si chiamava BitTorrent, che è quello originale, diciamo, dell'inventore. Rimane ancora uno dei migliori, piuttosto pulito, leggero, si integra bene con il browser, eccetera. Però oggi andiamo a parlare di un altro client, sempre per BitTorrent, che è un pochino più simile con l'impostazione classica come del file sharing, quindi più simile a Emule, Kazaa, eccetera, eccetera, e si chiama Azureus. È un progetto di SourceForge, è open source, è scritto in Java, quindi c'è su tante piattaforme, c'è su Windows, Linux, Mac OS X, insomma, va un po' su tutto perché è scritto in Java, è in lingua italiana e è fatto molto bene. Dunque, ha la solita interfaccia, per cui è possibile inserire il download, dà una serie di informazioni riguardo al download, è possibile settare tutta una serie di parametri per il funzionamento. Cosa molto interessante è che funziona a plugin, cioè è possibile aggiungere delle funzionalità non presenti nella versione di base, che sono sviluppate magari anche non dal gruppo di sviluppo diretto del client, ma in generale. Tra queste plugin ce ne sono alcune veramente interessanti, che sono ad esempio l'RSS Scanner, ovvero, aggiunta questa plugin, è possibile configurarla per prendere un RSS, che sono quella, va bene, ne parliamo spessissimo, sono quel formato con cui vengono divulgate le notizie, i flash delle notizie. È possibile prendere questo plugin, inserirlo, scansionare un feed RSS e prelevare tutte le notizie che contengono i link ai file da scaricare. In pratica, in automatico possiamo avere in download tutto quello che viene pubblicato da una testata che pubblica contenuto tramite BitTorrent. Ad esempio, Engie Vision, di cui abbiamo parlato l'anno scorso, che è un repository per file video prodotti da un circuito indipendente che aderisce a questo progetto. Tramite questo plugin è possibile configurarlo per avere sempre aggiornato tutto ciò che Engie Vision pubblica sul proprio sito. Poi, vabbè, altre caratteristiche sono la facilità d'uso. L'unica cosa che manca ad Azureus è il motore di ricerca, che è difficile da trovare sui client per BitTorrent, perché non è previsto proprio dal protocollo. Forse è il caso di presentare solo questo per questa settimana, perché siamo un po' con i tempi stretti. Tra l'altro, volevamo parlare anche di calciolibro.com, di cui ci siamo dimenticati. Effettivamente, è una notizia che era della settimana scorsa: è stato chiuso un sito Sì, che sì. permetteva di collegarsi a TV cinesi e guardare diciamo così, oddio. Le Guardare partite via di internet. calcio, che in Cina non sono criptate, permetteva di guardarle liberamente sul proprio computer. Ringraziamo Marco e Silvana che ci hanno ricordato di parlarne di questo. Ok. Va bene. No, vabbè, la cosa interessante perché Cialtrone. No, sono i bigliettini che passa Marco che sono incomprensibili. Ci eravamo effettivamente dimenticati di... No, in realtà ce l'avevo in scaletta. Ma ho passato il bigliettino, me l'hai fregato. Hai rubato la notizia, hai fatto tutto tu. Volevo salutare Marco e Silvana che mi hanno mandato gli auguri, i complimenti per l'esame di stato e basta. Senti, una roba proprio personale. No, la notizia comunque è abbastanza grave, nel senso che appunto all'oggi c'è un filtro in Italia per alcuni IP, per quindi alcuni indirizzi internet con destinazione la Cina, dove erano visibili appunto queste partite. Si tratta del secondo caso di filtro nazionale come si dice? Sentenze di questo tipo? Obbligato dalle forze dell'ordine, ha costretto gli ISP a filtrare questi. Il primo caso era stato quello riguardante le scommesse via internet, ne avevamo parlato anche noi, non si ricordano più, sì, mamma mia ragazzi, l'Alzheimer galoppante. Le scommesse via internet si possono fare solo in Italia, ma in quel caso era di bloccare un sito all'estero, adesso non so cosa. Anche questo è la stessa cosa. Se sono filtrati gli IP di questi indirizzi, quindi dall'Italia non è possibile raggiungere questi indirizzi. È ovvio che si tratta dei primi casi di censura modello cinese anche in Italia. È pesante questa cosa, non aveva colto. Magari ne parleremo nei dettagli la prossima settimana. Adesso invece avevamo in programma di parlare alcune notazioni relativamente alla GPL3, che probabilmente non verrà adottata da Linus Torvalds, che è insomma il gestore principale del kernel del sistema operativo Linux. Che conseguenze potrà avere questo, Alessandro? Allora, abbiamo accennato settimana scorsa alla GPL3, che sarà un'evoluzione della GPL. Ricordiamo a tutti che cos'è la GPL. È la licenza che ha dato vita al movimento free software diciamo così come lo conosciamo oggi. Quindi è stata una reazione al copyright e al brevetto imposto sui software in America, che erano nati liberi, quindi come un normale scambio di informazioni tra persone diverse, e che poi sono diventato oggetto dell'appropriazione, comunque della restrizione della proprietà privata, del diritto d'autore, eccetera eccetera. La GPL era nata col tentativo di difendere i consumatori principalmente, quindi sanciva una serie di libertà che verranno ovviamente ribadite nella GPL 3, con alcuni dettagli in più dovuti comunque all'evoluzione dei tempi e anche al tentativo sempre maggiore delle grandi corporation di mettere un freno alla diffusione del software libero, del free software. Alcune di queste novità non sono state gradite da Torvalds, che è l'inventore, comunque chi ha scritto il kernel Linux, almeno la sua fase iniziale, e che tutt'oggi è chi il detentore dei diritti su questo su Linux, sul kernel Linux, e quindi anche quello che decide cosa farà di questo kernel. In particolare a Torvalds non sono piaciute le limitazioni della GPL3 relative, più vicino al microfono, Marco, relative al divieto di utilizzare il software basato sulla GPL3 per creare sistemi che utilizzino tecnologie di DRM, ovvero sia Digital Restriction Management. E niente, questa cosa Linus Torvalds l'aveva già ribadita negli anni scorsi, a lui la questione della libertà relativa alla fruizione dei contenuti non interessava, non è mai interessata, e di conseguenza l'ha dichiarato ufficialmente in questi giorni che non accetterà la versione 3 della GPL, appunto. Ricordiamo che il DRM funziona in questo modo, e perché è così importante per il kernel Linux, perché il DRM è un pezzo del computer che impedirebbe poi al software che ci lavora sopra di fare delle cose. Ad esempio un blocco fisico che impedisce di ascoltare un brano musicale di cui non si hanno i diritti. Adesso non esiste questo blocco, per cui anche a livello software c'è sempre la possibilità di ascoltarlo, anche se poi magari Microsoft tenta di metterci il suo blocco software, è sempre aggirabile. Se ci fosse un blocco hardware che proprio impedisce di eseguire questo brano, questo film, eccetera, il software non potrebbe fare nulla. E in questo la battaglia è molto forte, nel senso che avere il supporto al DRM anche in Linux vorrebbe dire in qualche modo sancire la legittimità di questi vincoli e di autorizzare, insomma, l'utilizzo di queste tecnologie che sono fortemente lesive delle libertà individuali o comunque della libertà dei singoli di decidere come eseguire o meno, cosa fare, insomma. Sarebbe un divieto a priori. Sempre sulla GPL3 c'è un'altra notizia, che è quella di Open Solaris, la versione open del sistema operativo prodotto dalla Sun, che secondo il suo presidente Jonathan Schwartz Jonathan Schwartz è possibilista sul fatto che nella prossima release di Open Solaris venga utilizzata la GPL versione 3 addirittura, insieme alla licenza già presente. Ah sì, insieme alla licenza già di licenza di CDDL, di cui non mi ricordo la sigla cosa significhi, però questo non me lo ricordo. E niente, in particolare ha parlato della, appunto, ha detto che questa è possibilista su questa release, su questa nuova release di Open Solaris, anche se effettivamente le informazioni che arrivano dalla Sun sono sempre abbastanza contraddittorie, perché un giorno dichiarano di essere dei fautori del software libero e credono nel software libero che sia l'unico futuro dell'informatica, poi il giorno dopo si alleano con Microsoft e un po' di tempo fa mi ero salvato una bellissima foto di Scott McNeely abbracciato con Bill Gates a una presentazione Sun Microsoft, non avevo ben capito cosa fosse, insomma un po' dubbioso questa dichiarazione, appunto, dei vertici della Sun. Ah, siamo veramente in chiusura, facciamo proprio due battute conclusive, Alessandro. Volevo leggere un pezzettino che era un'intervista a Stallman, che è l'inventore della GPL, a proposito appunto del DRM di cui si diceva prima. L'intervista è molto lunga, leggo solo due battute. Perché lui è contro il DRM? Perché sono progettati per renderti impossibile programmare il tuo computer per fare certe cose, che è una cosa che a Stallman non è mai piaciuta. Rendere il DRM il DRM è un'ingiustizia di per sé, ma il trackerless computing attacca anche il software libero come effetto collaterale, che è un'evoluzione del DRM in sostanza. La resistenza probabilmente deve essere mirata ad evitare il successo di quell'hardware, quindi è chiaro l'obiettivo di Stallman per quanto riguarda questo tipo di problematica riguardo alle libertà digitali. Lo scontro produrrà probabilmente degli effetti collaterali notevoli, nel senso che l'avere due licenze contemporanee non compatibili tra di loro, perché come effetto collaterale potrebbe esserci ad esempio che non potranno essere sviluppate patch al kernel Linux sotto GPL3, per esempio, che è una cosa considerevole, e quindi è possibile che nei prossimi mesi, anzi sicuramente, ci sarà un forte attrito e avremo sicuramente modo di parlarne ancora, insomma. Direi di sì, perché la cosa mina al fondamento lo sviluppo del software libero oggi, ma dall'interno, quindi dall'interno della comunità stessa. È anche vero che però questa versione della GPL3 è ancora una versione preliminare, la versione definitiva è attesa per il 2007. Sì, però non spererei troppo, anche perché il contrasto è proprio di fondo, quindi dubito che dettagli o sfumature nel correggere le bozze possano risolvere il problema. L'unica possibilità è che Torvalds faccia, almeno come la vedo io, un passo indietro nella gestione del progetto kernel Linux, visto che comunque anche all'interno del progetto ci sono posizioni più possibiliste. E quindi siamo al momento della nostra fantastica sigla. Sì, che inizia sempre un po' in sordina. I cialtroni nello spazio vi salutano. La 13ª puntata. Marco, devi parlare nel microfono. Ci parlo. Allora, spazio.circolab.net per avere tutti i link, le informazioni che abbiamo utilizzato, eccetera, e per scaricare anche le trasmissioni. La mail è radio@numerica.org. E ci vediamo la settimana prossima e lasciamo lo spazio a Vera che spunta da... che stava scalpitando. Giustamente. Ciao! Ciao ciao.